Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Eccoci in conclusione, ringraziamo tutti voi che avete avuto la pazienza ad ascoltarci, che avete persino rinunciato a correre la Stramilano per restare a casa a sentirci. Ringraziamo Max Ferrigno che ha fatto con la consueta perizia la regia, e ci sentiamo tutti quanti la prossima settimana. Arrivederci.